Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica e benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste italiane e straniere. Voglio cominciare questa mattina con un quello che per me è un auspicio, è un bellissimo augurio. Sta su Vanity Fair di questa settimana, rubrica Peccati Capitali, la firma di Franco De Benedetti, perché la stampa non morirà mai. Chiaramente per una trasmissione che si regge appunto sulla carta stampata, questa è una bellissima notizia. Allora, in realtà De Benedetti qui riassume molto molto sinteticamente quello che è un dibattito che sta durando, come forse sapete, da anni, cioè il passaggio all'informatica, la diffusione delle nuove tecnologie, l'utilizzo dei computer e così via. Ucciderà la carta stampata, sostituirà i libri, farà scomparire i giornali e così via. Il dibattito è amplissimo. Va davvero ammirata la capacità di sintesi che viene mostrata in una colonna di una rivista in cui si parte da un esempio molto banale che probabilmente molti di noi hanno notato nelle mail che ricevono da un po' di tempo a questa parte, per arrivare poi a delle considerazioni assolutamente condivisibili. Vi leggo allora rapidamente questa indicazione data da Franco De Benedetti. Think before printing, in inglese vuol dire pensa prima di stampare. È la scritta che compare su molti email ed è un condivisibile invito a risparmiare gli alberi, ma quella di avere un pezzo di carta da leggere e magari da archiviare è davvero solo il residuato di altri tempi, cioè un'abitudine che è destinata a soccombere di fronte al formato elettronico dei file, dei database? Per certi aspetti, dice De Benedetti, la stampa è imbattibile. Libri e giornali si leggono senza bisogno di connessioni o timori che la batteria ci pianti in asso, si mettono in tasca, le loro pagine possono essere sottolineate, piegate, strappate, accostate, resistono agli urti, resistono al caldo, sono molto più robusti dei file. L'idea, argomento De Benedetti, è che la registrazione elettronica sia eterna, ovvero che sia molto più durevole della registrazione su carta, del libro, del giornale. In realtà è un mito senza fondamento, perché i computer di oggi, se ci pensiamo, non leggono più i floppy disk di 10 anni fa. Una raccolta di documenti sulla vita dei ragazzi inglesi che è stata registrata nel 1986 dalla BBC oggi è inutilizzabile perché non ci sono più le macchine che leggono i dischi laser su cui l'avevano incisa. Quindi affidiamo i nostri documenti alla rete, ma in realtà li affidiamo ad archivi elettronici di aziende che potrebbero anche cambiare le loro politiche, vendere, persino fallire. Un libro del 1200, spiega, l'ho potuto avere tra le mani, riuscivo a leggerne i caratteri senza difficoltà. Insomma, think before printing, pensaci prima di stampare, va sempre bene per gli alberi. A noi serve anche il print for thinking, stampa per poter pensare. Allora, visto che abbiamo, come dire, parlato della importanza e della immortalità della carta stampata, vi segnalo un libro che però parla in realtà di musica. L'ho trovato su Panorama. Panorama, in un articolo di Gianni Poglio, segnala la imminente uscirà tra una decina di giorni, di un libro dedicato a una delle più famose interviste a Lucio Battisti. Lucio Battisti, assoluto protagonista della canzone italiana e ancora oggi notissimo anche a chi non ha potuto ascoltarlo dal vivo. Questo libro è particolare perché raccoglie praticamente l'intervista che Renato Marengo, era un produttore discografico e faceva però anche il giornalista in una rivista musicale che si chiama Ciao 2001, nel novembre 74 riuscì a oltrepassare la cortina di silenzio in cui Lucio Battisti si era rifugiato. Battisti era personaggio molto schivo e non concedeva abitualmente interviste. La sua teoria, che viene ricordata appunto a Gianni Poglio su Panorama, è: un musicista, se la propria musica comunica ed emoziona realmente, non ha niente da spiegare, niente da aggiungere rispetto a quello che si ascolta nei suoi dischi. Questa era la risposta di Battisti a chi gli chiedeva di concedere almeno un'intervista, e lui però teneva duro. Almeno fino al novembre 74, quando appunto Renato Marengo riuscì a stare con Battisti un po' di giorni in occasione della registrazione di un album, appunto, si chiamava l'album, era l'album di Anima Latina, e lui si trovò a conversare di musica e non solo con l'inafferrabile Lucio, ricorda Poglio. La cronaca di quell'incontro storico è ora racchiusa nel libro Lucio Battisti, la vera storia dell'intervista esclusiva, che appunto sarà in libreria dalla fine di novembre. Tra l'altro si torna anche sulla presunta politicità o meno di Battisti, fu un pochino ostracizzato da alcuni ambienti perché si diceva ed era noto che fosse di destra. In realtà appunto lui disse a Marengo: ma di che parli, di cosa stai parlando, io non mi interesso assolutamente di politica, è proprio fuori dal mio mondo, non credo che per scrivere buona musica si debba essere iscritti a questo o a quel partito. E poi naturalmente la diffidenza fortissima di Battisti nei confronti dei giornalisti, comprensibile visto che appunto raramente concedeva interviste. Dice in modo poco lusinghiero per la categoria: il giornalista è qualcuno di cui non puoi mai fidarti, spesso non perché debba essere per forza un traditore o una carogna, ma perché quanto più bravo è un giornalista, tanto meno riesce a fare a meno di scrivere tutto. Quindi siamo due nemici naturali. Io sono un personaggio famoso, lui uno che vive raccontando ai suoi lettori il pubblico e il privato dei personaggi famosi. Allora, visto che abbiamo fatto un po' un salto nel passato, conservazione della memoria, abbiamo parlato della conservazione della carta e dei file digitali e anche di un protagonista della musica del passato, ma diciamo tuttora ascoltatissimo, voglio segnalarvi un viaggio impossibile condotto da Emiliano Fittipaldi su L'Espresso, viaggio impossibile che riguarda proprio la memoria e un tema, ohimè, di attualità. Pompei Trophy, questo è il significativo titolo dell'inchiesta che trovate sull'Espresso di questa settimana. Il collega Fittipaldi si è preso questo incarico, ha provato a partire da Roma per arrivare a vedere gli scavi di Pompei e poi a raccontare com'è il viaggio. Il quadro che se ne ricava è abbastanza desolante, perché al di là del crollo della Casa dei Gladiatori, di cui tutti abbiamo letto e di cui tutti ci siamo preoccupati, il problema sembra essere quello che non siamo proprio in grado di dare un accompagnamento adeguato, un aiuto adeguato ai turisti che vengono in Italia per visitare Pompei, che appunto è una cosa assolutamente unica in tutto il mondo. Il resoconto è molto lungo, quindi vi rimando poi all'Espresso per una così lettura passo a passo. Vi segnalo solo allora che il viaggio comincia dal caos della stazione Termini ai cartelli beffa della Circumvesuviana a Napoli. La folle corsa ostacoli di un qualsiasi turista che voglia raggiungere gli scavi, per poi ritrovarsi tra degrado, incuria e macerie. E tante mance, questa è anche l'indicazione, devo dire, non sempre gradevole, appunto, che si ricava dall'articolo di Fittipaldi. Vi risparmio l'esordio dalla stazione Termini, partiamo direttamente in questo viaggio, in questo resoconto di Fittipaldi, dall'arrivo a Napoli. Il treno spacca il secondo, dice, è un'ottima notizia, in 1:10 è alla stazione centrale di Napoli, da qui si arriva alle rovine antiche, ma come? Il turista chiede indicazioni, invano, segnalazioni zero, un tassista abusivo si avvicina sfoderando un sorriso da angelo salvatore. Se volete andare a Pompei vi porto io per 300 euro, ovviamente il turista dice no grazie, per sfuggire alle avance il turista esce fuori in piazza Garibaldi, l'autobus gli dicono parte da lì, gli hanno raccomandato, in piazza cerca questo veicolo fantasma che lo dovrebbe portare a Pompei in uno slalom, dice, ormai divenuto classico tra purtroppo l'immondizia di tornata all'altezza dei primi piani, giocatori d'azzardo e così via, e il bus della Sita per Pompei non parte in realtà da lì, gli dicono, ma dal porto, fermata a Varco dell'Immacolatella a 4 km. Quindi gli consigliano la Circumvesuviana, sta proprio qui sotto, è comodissima, è quella che è deragliata, gli dicono qualche tempo fa, questo magari non era proprio di buon auspicio. Il problema è che anche sulla Circumvesuviana poi il nostro cronista sbaglia fermata, dice, per la mancanza di indicazioni, e quindi il viaggio assomiglia sempre più a un'odissea, per arrivare poi al resoconto puntuale degli scavi e spesso dell'incuria in cui alcune parti degli scavi versano. Tutto questo sull'Espresso. Magazine 24. Allora, restiamo sull'Espresso. Abbiamo appunto letto dall'Espresso qualche passaggio di questo Pompei Trophy, così l'hanno battezzato in redazione, per descrivere la difficoltà che un turista normale, un turista medio, non in un gruppo organizzato, può trovare per raggiungere gli scavi di Pompei, dove poi appunto arrivando non sempre trova le cose in ordine, come abbiamo purtroppo appreso nelle ultime settimane. Ma c'è sempre sull'Espresso un altro tipo di viaggio che scopriamo essere divenuto a rischio. Si tratta della gita scolastica. Mi spiego meglio. Roberta Carlini segnala: tutti a casa, salta la gita, disertare i viaggi scolastici. È una forma di protesta che pare stia crescendo nelle scuole. La rivolta dei professori, scrive la Carlini, contro i tagli del ministro Gelmini si estende in tutta Italia e mette a rischio un settore del turismo che vale 650 milioni di euro ogni anno. Scrive Roberta Carlini: qualcuno la definisce una forma di luddismo scolastico, altri festeggiano perché finalmente tutti si accorgono dei guai degli insegnanti, e poi c'è chi scrive al governo, chi fa dei sit-in per manifestare il proprio diritto al torpedone. Poi ci sono i presidi che solidarizzano, altri che provano a metterci una pezza, ma insomma lo sciopero delle gite scolastiche si sta estendendo in Italia e mette a rischio i viaggi di istruzione della prossima primavera, con essi migliaia di posti di lavoro in un settore che ormai è diventato un business corposo e che teme il crollo degli ordini. Infatti qualche dato che accompagna l'articolo di Roberta Carlini ce lo ricorda: il fatturato delle gite scolastiche è stato calcolato in 651 milioni di euro. La spesa media per studente viene invece calcolata in Italia con 137 diciamo euro. All'estero la media è però molto più alta, questa spesa arriva a 340 euro. Si calcola che nel 2009 abbiano partecipato a una gita scolastica 3 milioni e 623 mila studenti. Da qui appunto la preoccupazione del settore per questo tipo di protesta, questa rinuncia alle gite scolastiche. Perché c'è questa rinuncia? Perché è stata affermata, sono state riviste le attribuzioni, viene negata la cifra di compenso, anche, spiega la Carlini, anche quella che veniva assegnata per le gite all'estero. Quindi lo stop si è aggiunto ad altri più noti, gli scatti di anzianità, le ore di compresenza e così via, e quindi dall'ala dura del sindacalismo, Cobas e Gilda, è partita la parola d'ordine: no alle gite. Questa proposta ha cominciato a circolare nelle scuole e pare che stia facendo breccia, perché a metà novembre a Torino c'erano diversi licei che stavano disponendo di non fare gite. Situazione simile, descrive la Carlini, in Lombardia, dove c'è un'agenzia di viaggi che sta proponendo di pagare di tasca sua i professori pur di evitare la cancellazione delle gite. È un problema sentito anche nel Veneto e in pezzi di Toscana e in Emilia-Romagna. Preoccupati naturalmente quelli delle agenzie di viaggi, gli operatori delle agenzie di viaggi, le agenzie sono alla disperazione, dicono alla FIAVET regionale. Sul sito campeggia una lettera che hanno scritto proprio gli agenti di viaggio a tre ministri perché si attivino per un intervento urgente a salvataggio delle gite. Quindi tutto questo su L'Espresso di questa settimana. Tutti a casa, salta la gita, a firma di Roberta Carlini. Parliamo un po' più positivamente di viaggi, lo faccio ricordandovi che da venerdì è in edicola con Il Sole 24 Ore I Viaggi del Sole, torna in edicola I Viaggi del Sole. Il numero di questo mese è dedicato alle vacanze sulla neve, gli sci, le piste, i rifugi d'Italia, dalle Alpi agli Appennini, con tutti i consigli per chi già conosce questa testata. Naturalmente non serve la descrizione dei contenuti, gli altri troveranno appunto i vari le varie indicazioni, sia per alloggiare sia per lo sport e anche per il cibo. Tutto questo con Il Sole 24 Ore, I Viaggi del Sole, in edicola da venerdì 19 novembre. E allora, visto che viaggiare spesso è anche un'occasione per cibarsi, parliamo invece di cibo. Molti avranno notato che con il Corriere della Sera da giovedì è in distribuzione 7, che è interamente dedicato al cibo. Pianeta Cibo è infatti il titolo che campeggia sulla copertina, e poi all'interno tutta una serie di servizi appunto sull'alimentazione. Ho trovato però nelle pagine iniziali proprio di 7 2007. Una cosa curiosa, un viaggio che molti di noi fanno tutti i giorni nel momento del lavoro, il viaggio che si fa all'interno della mensa. Perché ci si occupa di questo nella rubrica che viene curata da Donatella Bogo? Perché si sono accorti, facendo degli esperimenti molto seri, che se la mensa modifica il suo percorso per prendere il cibo, noi mangiamo in modo più sano. E viene poi descritto appunto anche come funziona questo tipo di percorso virtuoso. Dolci e gelati vanno in un angolo, la frutta e la verdura va al centro. Basta cambiare il percorso dei self-service, gli avventori si mettono sul vassoio alimenti più sani. Io mi chiedo, qua non lo spiegano, se quando invece non c'è la preoccupazione di dare alimenti più sani, ma magari far spendere qualcosa di più, si possa anche adottare delle tattiche a rovescio, cioè proporre in modo più visibile delle cose più costose o in punti più visibili, che si sanno più visibili. È una domanda che però su 7 non viene appunto esplorata. Ad accorgersi invece del riflesso sulla salute sono stati due ricercatori della Cornell University. Hanno condotto un esperimento nelle scuole americane e hanno disegnato il modello ideale di mensa. Tra l'altro, si apprende sempre da 7, ogni giorno in Italia 5 milioni e mezzo di persone mangiano al self-service e c'è anche un movimento che sta cercando di dare valore al cibo appunto nella ristorazione collettiva. Non sembra che l'Italia sia così sensibile, perché siamo molto lontani, dicono gli operatori, dagli standard europei. Troppo spesso i nostri bandi privilegiano i costi più bassi a scapito dell'offerta migliore. Ma qualche indicazione appunto di percorso per la mensa. Allora, prima vanno le verdure, qui naturalmente l'esperimento è stato condotto nelle scuole, quindi si parla di studenti, ma potete sostituirlo con un più generico avventori. Lo studente arriva in mensa affamato, è invogliato a mettere sul vassoio quello che vede all'inizio del percorso, questo anche se si tratta di verdure, sedano, carote, quello che volete. Grazie a questo trucco, la ricerca americana ha rivelato che si può arrivare a un aumento del 10-15% nel consumo, ad esempio, dei broccoli. I gelati vanno nascosti, vanno messi in un freezer con coperchio scorrevole anziché nei dispenser aperti, perché questo modifica significativamente appunto la richiesta dei gelati. L'insalata va al centro, cambiando posizione, si spiega, al banco delle insalate, che viene tolto da contro il muro, messo al centro della mensa, i consumi risultano addirittura triplicati. E poi naturalmente la frutta in vista e infine colpire l'avventore nel portafoglio, se si vuole farlo mangiare meglio o in modo più sano. Dolci a parte, cioè far pagare il dessert come extra rispetto al buono pasto, fa registrare un decremento nei consumi di dolci del 55%. Naturalmente la motivazione economica resta sempre quella privilegiata quando si vuole intervenire decisamente su un comportamento. E con questa indicazione si conclude la puntata di oggi di Magazine 24. Grazie ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma, grazie a Paolo Corleoni in regia questa mattina. Vi ricordo, se volete risentire Magazine 24 potete collegarvi al nostro sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.